con Jacopo Chessa del Centro Nazionale del Cortometraggio per parlare di I Love Guy, concorso giovani autori italiani al Lido di Venezia, al Cinema Astra, il prossimo 31 agosto. Jacopo, ben trovato. Ciao, buona giornata. Raccontaci un po' di questo concorso. Sì, un concorso organizzato da Lightbox in collaborazione con SIAE che sostanzialmente propone una selezione di corti italiani della passata stagione. Sono 15 corti, io in questa edizione ho avuto il ruolo di selezionatore ospite perché ogni anno nel comitato di selezione c'è un membro, diciamo così, esterno invitato che partecipa all'ultima fase di selezione. È una selezione che a mio avviso rende conto un po' di tutti i tipi di produzione e temi trattati dal cortometraggio italiano contemporaneo, quindi no, trovo che sia interessante da questo punto di vista e poi è un concorso sempre più ambito, diciamo, per i giovani autori. Senti, una selezione di 15 lavori a fronte di quanti? Questo sai che non lo so perché bisogna chiedere agli organizzatori. Io sono arrivato appunto nell'ultima fase di selezione, per cui c'era già una sorta di shortlist molto abbondante, però non erano tutti, penso che sia nell'ordine di 200 lavori che arrivano, mi avevano detto sugli anni scorsi, sia più o meno questo l'ordine di grandezza. Senti, a che edizione siamo? È la terza edizione questa. Sì. Sarà tutto concentrato nella giornata del 31. Sì, il 31 ci sono le proiezioni al pomeriggio e la sera ci sarà una festa su invito per chi è al Lido. Ma la cosa interessante è che appunto viene fatta in concomitanza con la mostra di Venezia, per cui ovviamente intercetta anche tanto pubblico di Venezia, tanti professionisti che sono lì per il festival. Sì. Dicevi che nel complesso comunque rappresentano un po' un panorama generale di quello che si muove all'interno del cortometraggio oggi in Italia. Ecco, che impressione ti hanno fatto? Ma sai, sono corti che in generale conoscevo perché Ah, ok. lavorando sulla promozione del cortometraggio italiano e altresì organizzando un evento sui corti che è il Torino Short Film Market, bene o male la gran parte di questi corti mi erano già passati sotto gli occhi. Sì. L'impressione è in generale positiva, devo dire, quindi di una produzione viva, di un livello professionale che tutto sommato non ha niente da invidiare ad altri paesi europei. Per chi volesse farsi un'idea di che cosa sono i corti italiani oggi, via Venezia, consiglio di fare un salto all'Astra. In che ventaglio di età si muovono gli autori? Dunque, in generale sono abbastanza giovani, quindi sono intorno alla trentina, anche sotto, quindi il corto è per eccellenza il genere giovanile, ma non solo per gli autori, anche per le maestranze, i tecnici, insomma. È un po' da quel lato lì il cosiddetto banco di prova, no? Per Sì. cui è facile che siano degli under 30. Un po' da tutta Italia, dalla città come dalla provincia? Sì, questo. Poi ovviamente ci sono grandi città, insomma, i poli produttivi importanti, a cominciare da Roma, che fanno un po' da padrone, però un po' come nel cinema italiano in generale, non è che ci sia una grossa differenza, direi, su questo. Ci sono anche le scuole di cinema, insomma, da quel lato lì il panorama è molto variegato. Jacopo, già che ci siamo, parliamo anche un po' dell'attività del Centro Nazionale del Cortometraggio. Sì, guarda, adesso la nostra, come dire, il nostro grosso lavoro in questo periodo è l'organizzazione del Torino Short Film Market, che si svolgerà dal 22 al 25 novembre. I nostri bandi sono tutti aperti fino al 10 settembre, quindi a Venezia presentiamo la prossima edizione del Torino Short Film Market il 1 settembre, sabato, alle 16, all'Excelsior. Insomma, è un po' questa la cosa, abbiamo quattro bandi aperti, quindi insomma, anzi 5 bandi aperti. Sì. Quindi quest'anno sarà la terza edizione, sarà un po' più lunga, 4 giorni, quindi è un po' impegnativa. E anche lì chi è interessato a fare corti o a far evolvere i propri cortometraggi in lungometraggio o serie TV, penso che potrebbe essere molto interessato dal Torino Short Film Market. Stanno assumendo una loro dignità di formato a sé stante o rappresentano sempre un trampolino di lancio verso il film di finzione o il documentario? Guarda, ti direi ambedue le cose, nel senso che Molti circolano, riescono ad avere successo anche su piattaforme VOD o anche su semplicemente piattaforme di sharing tipo YouTube o Vimeo. Però chiaramente il regista, come dire, non esiste il cortista a vita, per cui il regista, ma anche lo sceneggiatore, tutti quelli che concorrono a fare un corto ambiscono a fare il salto a lungo alla serie, per cui direi che ha ambedue queste vesti il cortometraggio oggi. Per quanto riguarda la visibilità, la rete soprattutto. Ma guarda, fino a un certo punto i casi che ti citavo sono casi un po' limite, non è che tutti i corti abbiano questi grandi successi in rete. Molto i festival, canali televisivi europei principalmente, infatti noi invitiamo tanti buyer europei che a volte, come dire, valorizzano il cortometraggio. Si può pensare a Canal Plus che ne compra tanti, ne produce anche, ma la stessa Mediaset o Studio Universal in Italia. E, per cui in realtà le diffusioni su piattaforme o canali generalisti sono numerose, un po' più nascoste rispetto ad altri formati, però ci sono. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento con I Love Guy, concorso giovani autori italiani al Lido di Venezia, Cinemastra, il 31 agosto. Un saluto e un ringraziamento a Jacopo Chessa del Grazie Centro Nazionale del Cortometraggio. Jacopo, un abbraccio e a a te. Un presto. abbraccio, a presto, ciao ciao.